voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Marco Boglione, l'innovazione, lo sport, la pazienza, di Anna Marino. Per fare un'azienda, se uno è un fenomeno, ci mette 20 anni. Però l'azienda che vuole fare l'ha già capita il giorno prima di cominciare. E quindi questa logica di piano piano che ho fretta, che include anche un po' il fatto che quando tu vuoi fare qualcosa e ci credi e ce la metti tutta, e ce la devi mettere tutta anche se a un certo punto non va bene, perché non lo fai perché vada bene o perché ti dia dei risultati così a breve, lo fai perché ci credi. Marco Boglione è il fondatore e il presidente di BasicNet S.p.A. Il nome della società può anche non essere noto al grande pubblico. Sono sicuramente noti i marchi che sviluppa: Superga, Kappa, Robe di Kappa, Keyway, Jesus Jeans. Nato il 9 maggio 1956, Boglione è cresciuto con i due fratelli maggiori a Torino. In famiglia c'erano state esperienze imprenditoriali, ma lui, a creare la sua impresa, arriva attraverso alcuni passaggi che partono dagli studi. Credo che fare l'imprenditore sia sempre stato qualcosa che c'è stato nel mio retropensiero. In famiglia c'era una storia imprenditoriale di primissimo piano che però si era interrotta alla fine della Seconda Guerra Mondiale perché era mancato il nonno e poi le aziende erano state bombardate, quindi si erano interrotte le attività imprenditoriali e industriali della conceria a quei tempi. Poi io da piccolo andavo male a scuola, malissimo, al punto che seconda liceo scientifico, dopo due forti sbarramenti di fuoco in prima liceo con 3 materie e in seconda con 2, chiesi a mia madre di mandarmi in collegio e per uscire da questo incubo che era diventato il liceo. E uscii bene dal collegio, il Philippine, in cui passai 3 anni bellissimi, e poi forse uscii addirittura troppo bene per cui mi iscrissero quasi di diritto al Politecnico, ma che era l'ultima cosa che io volevo fare quando ero un ragazzo. E quindi a un certo punto, dopo un anno di Politecnico diciamo un po' stiracchiato, trovai una persona che mi diede una cima e mi disse: vieni a lavorare con me, che si chiamava Maurizio Vitale. L'azienda era il Maglificio Calzificio Torinese, produceva i Jesus Jeans e le Robe di Kappa, io lasciai tutto e andai, ed era il 76, avevo appena compiuto 20 anni. E lì stetti per 10 anni. Al Maglificio Calzificio Torinese S.p.A. viene assunto come assistente dell'amministratore delegato per il marketing e la comunicazione. Nel 1978 convince il suo capo ad istituire la divisione sportiva dell'azienda e nel 1981, all'età di 25 anni, viene nominato direttore commerciale e marketing, una delle 3 massime cariche direttive della società. Poi il primo passaggio, da dipendente a imprenditore, per dare corpo a un progetto che lo porta a fare qualcosa di nuovo. Quello che avevo incominciato a fare come dipendente, cioè quello che Luciano Benetton chiama stracci, io magliette, è quello che faccio ancora adesso. Le facevamo però senza avere un marchio nostro e quindi affittavamo i marchi delle grandi società calcistiche all'inizio italiane, poi non solo più italiane, e facevamo le solite magliette, i cappellini, le giacche e il cosiddetto merchandising sportivo. Partimmo da zero, all'inizio vendevamo solo per corrispondenza, poi mettemmo qualche bancarella ufficiale fuori dagli stadi e così facendo dall'83 al 94 qualcuno disse poi che noi eravamo diventati i leader mondiali in quel settore, così era. La società si chiama Football Sport Merchandise S.p.A., fondata insieme all'amico Luciano Antonino, ed è la prima azienda in Europa a produrre e commercializzare, su licenza, abbigliamento e accessori per il tempo libero con i marchi e i colori sociali delle principali squadre di calcio. Il modello di business è innovativo e sfrutta le tecnologie informatiche. Era sicuramente la prima volta in Italia, probabilmente una delle prime volte anche a livello europeo, era già invece una pratica abbastanza consolidata e praticata appunto negli Stati Uniti e noi pensammo di farlo qua. E tutto sommato fu una grande esperienza perché lì mettemmo le basi di quella che è ancora l'azienda di oggi al di là del prodotto, cioè della gestione informatizzata di tutti i processi aziendali. Eravamo a metà degli anni 80 e io, come ho detto tante volte, avevo già avuto una delle mie crisi, sindrome di Stendhal, di fronte alla microinformatica, di fronte ai primi microprocessori e micro PC. Poi arriva un'occasione. quella da non perdere. E poi, dopo 10 anni di vita imprenditoriale partendo dal garage, ebbi la grande opportunità di poter comprare i cespiti del Maglificio Calzificio Torinese, che nel frattempo nel 94 era fallito. Erano già 10 anni che facevo questo mestiere imprenditorialmente in modo innovativo, sicuramente, però non possedevamo i nostri marchi. E alla fine ci eravamo sviluppati molto, ma avevamo la sensazione di non riuscire a consolidare. Quindi l'opportunità di comprare dal fallimento Maglificio Calzificio Torinese questi marchi famosi, e quindi di poter rilanciare strategicamente la nostra attività sul piano globale, fu troppo, troppo allettante per non considerarla. E quindi acquisimmo i marchi, smettemmo di fare i produttori su licenza e incominciammo a sviluppare quella che è oggi la Basic Net, un modo nuovo di fare il nostro mestiere, un modo oggi meno nuovo, ma sicuramente 15 anni fa era molto trasgressivo e molto provocatore, perché dicevamo: vogliamo vendere le magliette con i nostri marchi in tutto il mondo, ma non vogliamo sostanzialmente né farle né possederle le magliette, vogliamo fare tutto quello che serve per poter far fare a tanti imprenditori nel mondo la produzione e la vendita dei prodotti che noi sviluppiamo, pubblicizziamo, ma non produciamo e non distribuiamo. E quindi sostanzialmente è nata poi questa Basic Net, che è una società di licensing più che di prodotto, ma che mantiene il patrimonio, incrementa il patrimonio attraverso la valorizzazione dei suoi asset intangibili, appunto, che sono i marchi. Basic Net SPA è oggi una società a capo di un gruppo di imprese industriali e di servizi nel settore abbigliamento, calzature e accessori per lo sport e il tempo libero. È in Piemonte, sviluppa i marchi di proprietà in tutto il mondo ed è stata creata come azienda globale sin dalla nascita. Noi, diciamo, come battuta ci viene da dire che siamo anche in Italia, perché siamo nati proprio con la volontà, e questa è stata una delle cose meno capite, più criticate, di voler fare un'attività a livello globale, perché pensavamo che quello costituisse il vero valore. E quindi all'inizio tutti ci hanno detto: no, è impossibile, perché la globalizzazione, cioè il vendere in tutto il mondo, è una conseguenza, non è un punto di partenza. E noi invece, con il nostro modello di business, abbiamo proprio dimostrato che può essere vero anche il contrario, cioè si può anche dire: faccio un'azienda e parto globale. Poi in effetti siamo in molto più di 70 mercati, siamo più di 120 mercati noi. Ho sempre detto che credo che la nostra regione, la nostra città sia un ottimo laboratorio, non ci manca niente, e neanche a livello di mentalità, cioè in fondo la grande azienda in Piemonte è qualcosa che è nel DNA dei suoi cittadini, e quindi al di là della solita, diciamo, cautela, che in Piemonte si dice spesso esagerumanen, quindi quando uno a 38 anni dice compro un Maglificio Calzificio Torinese e faccio subito un'azienda globale e voglio fare l'azienda più grande del mondo, diventare leader, tutti subito hanno in bocca quella frase. Il lavoro e lo sport si intrecciano indissolubilmente nella storia imprenditoriale di Marco Boglione. Lo sport sicuramente nella mia vita, come in quella di tanti ragazzi degli anni 70 e 80, è stato molto importante. Lo pratichiamo, lo pratico ancora, e credo che sia un pezzo ormai, insieme, adesso si dice che per i giovani dagli anni 90 in avanti, i tre grandi riferimenti siano stati il cinema, la musica e lo sport. Quindi è un pezzo della vita dei giovani, dove alla fine poi si deve trovare lo spazio anche per l'education, quindi per lo studio, ma sicuramente i tre pilastri sono la musica, l'intrattenimento multimediale, oggi c'è moltissimo internet, una volta ce n'era di meno, ma lo sport, sia praticato che seguito alla televisione, è un pezzo di vita giovanile. Anche l'impresa e la famiglia si intrecciano indissolubilmente. Luogo di vita e luogo di lavoro, organizzazione dei tempi. Mi ritengo uno fortunato nella vita, non perché mi sia andata bene una cosa anziché l'altra, ma perché sostanzialmente sto facendo quello che sognavo quando ero piccolo. Sto facendo l'imprenditore. Quindi alla fine non è tanto incastrare il lavoro alla vita, ma nel mio caso incastrare la vita al lavoro. La priorità l'ha sempre avuta l'attività, l'impresa, e l'ho sempre vissuta con un atteggiamento fisico di coinvolgimento in prima persona, e quindi a un certo punto mi sono anche trovato a vivere in azienda. Oggi vivo ancora in azienda, ho un magnifico appartamento, diciamo, nelle strutture aziendali, e cerco di far combinare al lavoro, che è sicuramente la priorità, gli aspetti invece quotidiani semplici di vita. Quindi i miei figli vivono con me in azienda, le vacanze si prendono, non è che non si prendono, si prendono, e forse se le contiamo tutte magari faccio anche un giorno di vacanza in più di qualcun altro all'anno, però non subordino mai diciamo, il lavoro alla vacanza, ma sempre viceversa. Punto di partenza di tutto, secondo Marco Boglione, è la filosofia imprenditoriale, che consiste nel combinare metodo e creatività con una notevole dose di duro lavoro. Filosofia che è l'essenza anche del suo libro, dedicato ai giovani, scritto con il giornalista Adriano Moraglio. Il titolo è Piano piano che ho fretta. Soprattutto i giovani che hanno visione, sogni, ambizioni, alle volte si impasticciano perché cercano di fare più in fretta di quello che è logico e fisiologico, direi, fare. Cioè, per fare un'azienda, se uno è un fenomeno, ci mette 20 anni. Però l'azienda che vuole fare l'ha già capita il giorno prima di cominciare. E quindi questa logica di piano piano che ho fretta, che include anche un po' il fatto che quando tu vuoi fare qualcosa e ci credi e ce la metti tutta, ce la devi mettere tutta anche se a un certo punto non va bene. Perché non lo fai perché vada bene o perché ti dia dei risultati così a breve, lo fai perché ci credi e ti dai i tempi giusti per verificare quello che sei stato capace di fare. Quindi ci vuole anche tanta pazienza, ci vuole tanto coraggio sicuramente, tanta convinzione, ma ci vuole anche il tempo. Cioè, io ho mai pensato che quello che tutto sommato è sotto gli occhi di tutti oggi, noi avremmo potuto realizzarlo nel giro di 5-6 anni. Poi l'altro sottotitolo è cioè che imprenditore è bello, è una bellissima professione. E ho scritto un libro che è poi la storia di quello che ci è successo negli ultimi 25 anni sostanzialmente da quando ho cominciato a fare l'imprenditore, ma anche con qualcosa di più che viene dalla famiglia, dalle tradizioni, eccetera, e da cui si evince che sembra quasi un paradosso dire che è bello, perché ne abbiamo passate di così tanti e tutti i colori. Eppure io sostengo che è stato bellissimo, è stato molto arricchente e lo rifarei, ma soprattutto lo rifarei anche se nel frattempo non fosse andato bene. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.